Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 34 di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker Vagabondo Fumino e oggi mercoledì 7 giugno dell'anno politico 2017 sono qua a dichiararvi la mia ingenuità, la mia semplicità. E sono a dichiararvela in relazione al fatto che chiaramente, come moltissimi di voi, delle persone che mi stanno ascoltando, di quelle che lo faranno e anche di quelle che non mi stanno ascoltando chiaramente, sanno, qualche giorno fa è stata giocata niente poco di meno che la finale di Champions League fra la Juventus e il Real Madrid. Beh, e io qua sono a dichiararvi la mia ingenuità, perché non credevo che anche questa volta si arrivasse ad una totale concentrazione, ad un totale assoggettamento nei confronti di questo evento sportivo, di questa partita che per qualche giorno è sembrata la cosa più importante che avesse da accadere nel mondo, in ogni latitudine, in ogni distanza. Eppure sì, è stato così, e io anche stavolta ingenuamente mi sorprendo, perché dico: ma com'è possibile che ancora nel 2017, anno politico chiaramente, ci perdiamo esclusivamente dietro a queste cose qua, cioè ad una partita di pallone, come diceva la mia nonna, a 22 bischeri in mutande che danno dietro ad un pallone? Beh, anche io sono stato un grande appassionato di questo gioco, l'ho addirittura praticato come calciatore, poi essendo chiaramente un calciatore di bassissimo livello l'ho abbandonato anche molto velocemente, poi mi sono buttato a fare l'arbitro, ho fatto l'arbitro per tantissimi anni, quindi anche io sono stato assolutamente dentro a questa vasca di pesci dove nuota di tutto e di più in relazione al mondo del calcio. Poi vabbè, ad un certo momento ancora ero arbitro e diciamo mi sono fra virgolette illuminato, non ho capito assolutamente niente, forse sono ancora più nella vasca di prima. Però quando vi ricordate il 2006, l'anno che esplose Calciopoli, tutti quegli scandali clamorosi, beh, io ero un arbitro a tempi e ero miseramente anche in odore di una piccola carriera, ero in odore di andare ad arbitrare in palcoscenici nazionali per uscire da quelli regionali in cui mi trovavo, quindi ero lì che mi giocavo la mia partita dentro questa situazione. E poi successe quel fatto là, le cose poco chiare, gli arbitri forse coinvolti, forse non coinvolti, le cose fumose, verità che sembrano lampanti che poi vengono in qualche modo rovesciate, insomma non mi piacque e decisi di abbandonare il giochino attivo, e contestualmente ho anche smesso di interessarmi al calcio di Serie A, Serie B, insomma, e quant'altro, a meno di sporadiche apparizioni mie in qualche stadio, ma più che altro per stare con gli amici, perché effettivamente si va a vedere una partita, adesso vado a vedere una partita di serie minore, però ecco, la partita in sé ne vedo molta poca in realtà, insomma, ecco, quello che si va a fare quantomeno nel mio caso è riuscire a radunarsi dentro lo stadio con alcuni amici che sono amici da tantissimi anni e con i quali fuori dallo stadio molto poco ci frequentiamo, perché quello comunque è l'ambiente che negli anni ci ha sempre riunito e ha sempre fatto sì che noi riuscissimo a scambiarci le nostre opinioni ed impressioni sulle cose. Però detto questo, il calcio in sé non mi interessa più, ed in effetti mi sembra molto strano. Eppure ragazzi miei, la settimana che ha preceduto la partita non passava giorno che ci fosse qualcuno che mi fermasse, magari, oppure al bar dove vai e tutto quanto, stai magari aggiornata, ti dicevano che c'era quella partita e la Juventus e il Real Madrid e chi vince e chi perde e chi è più forte e chi non è più forte. Beh, signori miei, ma cioè, è stata una cosa allucinante, e per cui io chiaramente sono normalissimo, una persona comune, anzi la persona fra le più comuni che ci possono essere, quindi anche io ho visto quella partita, ci mancherebbe altro. Ero invitato a cena a casa di amici e abbiamo notato una cosa molto interessante, non l'ho nemmeno notata io, l'ha notata l'ospite, il padrone di casa l'ha notata. Praticamente cosa è successo? Aveva organizzato un buffet con la televisione in terrazza, era una serata piacevole da stare fuori, e partita e via, quindi parole, partita, partita, parole, la partita era più un pretesto che altro. E in ogni caso, finita la partita, ci siamo subito accorti del passaggio delle auto che era ripartito. In effetti, per tutta la durata della partita sembrava di vivere in un paese fantasma, sembrava di vivere in un paese morto. E questa cosa, quando me l'hanno fatta notare, cavolo, ho detto è vero, cioè non ci ho fatto caso fino ad ora, però è vero, ora mi fate pensare a questa cosa. Triplice fischio dell'arbitro e il traffico è magicamente ripartito normale. Cioè, prima non è che era leggermente calato, un po' meno oppure un po' di più, c'è un evento, meno o più può capitare, era proprio sparito del tutto, non c'era più, non è passata assolutamente una macchina, e questo è proprio andata così, ad eccezione di un'ambulanza che ho sentito bene perché chiaramente aveva le sirene accese. Ma insomma, ho pensato, cavolo, ma quanta gente l'ha guardata questa partita, come noi alla fine, no? Come noi che l'abbiamo guardata in quel momento, chissà quanti altri. E ora non so i dati ufficiali, non mi interessa, non li ho guardati, però cioè, ci ho fatto subito caso e ho iniziato a pensarci lì in quel momento. È vero, ma è tutta la settimana che la gente mi dice e quel giocatore lì e quel giocatore là e Dybala qui, Benzema di là, e insomma era proprio il duale, questo o quello, ma te per chi sei, ma per chi sono, ma io non sono per nessuno, ma che me ne importa a me. E la gente ci rimaneva pure male, perché chiaramente la Juventus, essendo una squadra, forse la squadra che in Italia ha il più alto numero di tifosi affezionati, ha pure il più alto numero di tifosi contrari, quindi quando ti chiedevano questo, cioè se te non ti dichiaravi né per quello né per quell'altro, avevi fatto un peccato capitale, no? Dovevi essere o a favore o contro. Addirittura persone che mi sono venute a dire di cornetti in tasca, di preghiere più o meno religiose, a favore o contro, sembrava il film di Fantozzi, quant'è, vuoi la preghiera a favore, contro, è 30.000, cantata 50.000, sembrava la stessa cosa, cioè una cosa allucinante. Eppure tutti concentrati lì, tutti presi, e poi a partita finita, i giorni dopo, e sono partite gli sfottò sui social, chiaramente, perché prima ci sono gli sfottò dei tifosi che sperano di vincere una coppa, poi non l'hanno vinta e partono gli sfottò degli altri perché non hanno vinto la coppa. Cioè è lì che il mondo gira intorno a una partita di calcio, ragazzi miei. Quelli lì, la mia nonna diceva, sono 22 bischeri in mutande che danno dietro ad un pallone, e forse ai tempi poteva essere anche vero. Oggi ormai è accertato, quelle non sono 22 persone, sono 22 aziende, ognuno con il suo sponsor, ognuno con il suo tornaconto da una partita di pallone, cioè le società che vincano o che perdano, in ogni caso vincano, perché chiaramente i soldi, poi sì, il titolo, il fregio, sì, quello ha vinto, quello ha perso, sì, ma quello è merce da mercato, quello, insomma, nel senso, non è che si va tanto più in là. E noi e la gente comune, ho saputo di persone che hanno speso 1200 euro per andare a Cardiff a vedere la partita, cioè, ma quello magari è stato poi ora il mese prima o il mese dopo, o metà mese prima, metà mese dopo, perché con 1200 euro sono uno stipendio fra i più, diciamo, medio alti ormai in Italia, perché molti hanno contratti che sono pessimi, contratti ridicoli, quindi 1200 euro col cavolo che li guadagnano in un mese. Ma la gente che ha fatto? Ha preso i soldi alle finanziarie per andare a vedere una partita di calcio, e quelli sono andati lì e piangono perché hanno perso la partita. invece di piangere perché hanno perso 1200 euro a Bischeri per andare a vedere una partita. Perché si va bene, si va a vedere una partita, ci mancherebbe altro, io comprendo tutto. Ma quanto costa andare a Cardiff con Ryanair? Boh, 50 euro? Quanto costa un albergo di Cardiff? Cioè, ma perché pagare questi soldi? Ma lasciateglieli vuoti gli stadi a queste condizioni, non ha senso. Tanto chi vogliono loro, quel biglietto lì ce l'hanno avuto tutti gratis, perché voi sapete te quanti accrediti c'erano di persone che per un motivo o per un altro il biglietto non l'hanno pagato. Sulle spalle di chi? Della povera gente che dura una fatica bestia per arrivare in fondo al mese. Ora sembra un discorso populista e forse lo è, ma è così, però questa è la verità. Cioè, sulle spalle di chi magari per una passione è disposto a svenarsi per fare questa cosa, e poi c'ha i soldi che gli scappa fuori dall'orecchio e il biglietto è gratis. Ma sarà, ma non è accettabile, non è più accettabile una cosa del genere. Ragazzi miei, quelle sono 22 aziende che fatturano milioni di euro cada uno, tutti e 22 i giocatori, e noi siamo ancora dietro alle passioni come se fosse nel mondo vecchio, nel mondo di millenni fa. Ma no, signori miei, no. L'azzannarsi dietro ad un pallone o dietro ad un leone o per sfuggire dal leone, come succedeva nel circo romano, è finito, non è più, non c'è più motivo. Svegliamoci un attimino, riprendiamoci un attimo il senno, riprendiamo un attimino le cose per il loro verso giusto, perché altrimenti si va a fare una finuccia, qui fanno bene poi a pesci in faccia, a darceli a dritto come se non ci fosse un domani, e invece un domani c'è e ha da esserci, e noi abbiamo il pegno, diciamo, morale di aspettare questo domani e farlo migliore di quello che è stato lo ieri. Cerchiamo di essere un attimino più svegli, cerchiamo di essere un attimino più svispi. Le cose importanti mi sembra che siano abbastanza lontane dall'essere una partita di pallone. Ebbene, cari amici, detto questo, siamo arrivati alla rubrica del caffone vagabondo. E il caffone vagabondo di oggi chi è? Il caffone vagabondo di oggi è quello che chiaramente inizia il sole, sta per arrivare l'estate, quindi si inizia ad andare in piscina, si inizia ad andare alle terme, è quello che va alle terme. E cosa fa il caffone vagabondo che va alle terme? Il caffone vagabondo che va alle terme va con i figli. Sa, i bambini sì, sono vivaci, sono bambini, è bene per loro che lo siano, però sa, ci sono posti che dove magari è più consono mantenere il tono di voce bassa, non gli schiamazzi, non correre, non schizzarsi l'acqua, non tuffarsi nelle vasche della piscina. E ci sono anche magari i bagnini lì che cercano di arginare queste cose qua, ma il caffone, che non è chiaramente il bambino ma è il suo genitore, cosa fa? Aziona il telefono, aziona la videocamera e incita il figlio a tuffarsi nella vasca delle terme per riprenderlo, per fargli il filmino, per farci cosa poi? Minimo per andare su Facebook o su Instagram a pavoneggiarsi con gli amici. Ma bel caffone che sei, alle terme non ci si tuffa e non si fanno tuffare nemmeno i bambini, perché chiaramente ci sono un sacco di persone che sono alle terme non per passare una domenica di divertimento, ma perché magari hanno bisogno di relax, hanno bisogno di stare tranquilli e tutto quanto, e te gli fai fare i tuffi al figlio in faccia, e non è bene, non è bello, è un gesto assolutamente da cafoni. Bene, detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi fino a qua e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con la nuova puntata di Vagabondo in giro per il mondo, come sempre sulle frequenze di Radio Big World. Nel frattempo, pochi tuffi e siate saggi!